ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. 12ª puntata. Quando si incontreranno questi tre? Vigilia di Natale a Cloisterham. Poche facce estranee per le strade, poche altre facce, a metà estranee, a metà familiari. Un tempo facce di bambini di Cloisterham, ora facce di uomini e donne, che tornano sporadicamente dal mondo esterno e trovano la città straordinariamente streminzita, come a causa di un lavaggio poco accurato avvenuto nel frattempo. Il rintocco dell'orologio della cattedrale e il gracchiare dei corvi sulla torre sono come le voci della loro infanzia. Ad altri, come loro, è accaduto, nell'ora della morte, in luoghi lontani, di immaginare che il pavimento della camera fosse cosparso di foglie autunnali cadute dagli olmi del sagrato. Così erano tornati a vivere i suoni fruscianti e le fresche fragranze delle loro impressioni più antiche, quando il cerchio della vita era ormai quasi tracciato e l'inizio e la fine stavano per toccarsi. Segni della stagione festiva sono sparsi intorno. Bacche rosse brillano qua e là alle finestre della canonica. Il signore e la signora Taupe addobbano gli scranni della cattedrale infilando rametti di agrifoglio negli intagli e nei decori, come li stessero infilando negli occhiali del decano e del capitolo. Sontuosa abbondanza gremisce i negozi. Intorno si respira un'insolita aria di galanteria e di sperpero, manifestata da un immenso mazzo di vischio appeso sopra la porta del fruttivendolo. Non mancano pubblici divertimenti. Le statue di cera che hanno così profondamente impressionato la pensierosa mente dell'imperatore della Cina, a grande richiesta saranno esposte nella sola settimana di Natale in fondo alla via, presso la scuderia che è fallita. E a teatro andrà in scena una nuova, grandiosa, divertente pantomima natalizia, annunciata da un ritratto del signor Jacksonini, il clown, che dice: «Come state domani?» Realistico quanto a dimensione, quasi altrettanto realistico quanto a miseria. In breve, Cloisterham è desta e attiva, anche se da questa descrizione rimangono escluse la scuola superiore e l'istituto della signorina Twinkleton. In tre si incontreranno stasera nella casa di pietra. Come trascorre la giornata ognuno dei tre? Neville Landless si veste per uscire e quando è sul punto di farlo, in verità è già uscito dalla stanza e sul pianerottolo ha incontrato il canonico che esce dalla sua distanza. Torna indietro a prendere il bastone. Chris Sparkle, che si è fermato sulla scala, lo vede quando lui ricompare poco dopo e gli chiede sorridendo con quale criterio scelga un bastone. «Veramente non credo di capirne molto», risponde. «Mi baso sul peso. Troppo pesante, Neville, troppo pesante». Neville si reca alla casa delle monache e chiede che informino la signorina Landless dell'arrivo di suo fratello, come stabilito. Aspetta al cancello senza neanche oltrepassarlo, perché ha dato la sua parola di evitare Rosa. La sorella è attenta almeno quanto lui all'impegno che hanno preso e in un attimo lo raggiunge. Si salutano con affetto e senza indugio si incamminano verso le colline. «Non ho intenzione di inoltrarmi su un terreno proibito, Elena», dice Neville quando hanno camminato per un po' e stanno per tornare. «Ma capirai tra un attimo che non posso fare a meno di toccare, come chiamarla, la mia infatuazione. Non faresti meglio ad evitarla, Neville?» Sai che non posso starti a sentire. Puoi stare a sentire, mia cara, quello che Chris Sparkle ha sentito e anche approvato. Sì, questo posso farlo. Ecco di cosa si tratta. Visto che il tempo è bello e asciutto, parto per un'escursione a piedi e sono deciso a levarmi di torno domattina, lasciando in pace tutti quanti, me compreso, spero. Per tornare quando? Tra 2 settimane. Le scriverà? Le scriverà ogni secondo giorno e le racconterà tutte le sue avventure. Pensa di spedire degli abiti prima di partire? No, mia cara Elena, è un viaggio da pellegrino, con bisaccia e bastone. La mia bisaccia, lo zaino cioè, è pronto e basta stringere le cinghie e il bastone, eccolo qua. Glielo porge, lei fa lo stesso commento di Chris Sparkle, è molto pesante, glielo restituisce, chiedendo di che legno sia, legno di ferro. Fin qui è stato molto allegro. Forse gli ha dato vigore la necessità di essere convincente e quindi di dover presentare il suo piano nella luce più favorevole. Mentre cala la sera e le luci della città si accendono davanti a loro, si rattrista. Vorrei non dover andare a questa cena, Elena. Caro Neville, vale la pena preoccuparsi. Pensa a quanto presto sarà finita. Sì, ma non mi piace. So solo che non mi piace. Che strana aria pesante, come di morte. Lei gli mostra le nubi color rame oltre il fiume e dice che si sta alzando il vento. Lui quasi non parla più, fino a quando la saluta al cancello della casa delle monache. Lei non entra immediatamente dopo che si sono lasciati, ma resta a guardarlo mentre se ne va lungo la via. Lui passa 2 volte davanti alla casa di pietra, riluttante a entrare. Infine, al rintocco del primo quarto, girandosi rapidamente, entra in fretta sotto l'arco. E così lui sale la scala esterna. Edwin Drood passa una giornata in solitaria. Qualcosa di più profondo di quanto credesse è uscito dalla sua vita e la notte scorsa l'ha pianto nel silenzio della sua camera. Sebbene l'immagine di Elena Landless ancora fluttui sullo sfondo della sua mente, la creaturina amorosa, tanto più ferma e saggia di quanto avesse supposto, ne occupa la roccaforte. A disagio, dubitando di esserne stato degno, pensa a lei e a ciò che sarebbero potuti essere l'uno per l'altra. Se lui fosse stato più serio in passato, se l'avesse maggiormente apprezzata, se invece di rassegnarsi al destino avesse cercato un modo per accettarlo e migliorarlo. Eppure, con tutto questo, e anche se in tutto questo vi è un'acuta sofferenza, la vanità e il capriccio della giovinezza mantengono l'avvenente figura di Elena Landless sullo sfondo della mente. Che strano lo sguardo di Rosa quando si sono salutati al cancello. Vaga qua e là per passare il tempo fino all'ora della cena. Stranamente sembra che oggi Cloisterham lo biasimi, lo incolpi di non averla trattata bene, anche se è più pensierosa che adirata. La sua consueta noncuranza è sostituita da un'osservazione attenta e prolungata di tutti i vecchi luoghi. Presto sarà lontano e forse non li vedrà mai più, pensa. Povero ragazzo. Mentre imbrunisce, passeggia nella vigna dei monaci. Ha camminato per una buona mezz'ora, in base ai rintocchi delle campane, e ormai è quasi buio quando si accorge di una donna accucciata per terra in un angolo, accanto al cancelletto. Il cancello dà su un sentiero laterale, poco usato al crepuscolo, e la figura deve essere stata lì tutto il tempo, anche se l'ha distinta solo da poco e gradualmente. Prende il sentiero e raggiunge il cancelletto. Alla luce di un lampione lì vicino vede che la donna ha un'aria emaciata e che il mento rugoso poggia sulle mani e gli occhi guardano davanti a sé con una sorta di mota cieca fissità. Gentile come sempre, ma particolarmente inclina a esserlo stasera, dopo aver rivolto parole gentili a quasi tutti i bambini e i vecchi che ha incontrato, subito si china e parla alla donna. «Siete malata?» «No, gioia», risponde senza guardarlo e senza alterare lo strano sguardo cieco. «Siete cieca?» «No, gioia», Vi siete persa? Non avete una casa? Vi sentite male? Cosa c'è che ve ne state tutto questo tempo qui al freddo senza muovervi? Con sforzi rigidi e lenti, sembra contrarre l'angolo visuale fino a portare lo sguardo su di lui. Poi gli occhi si velano stranamente e lei comincia a tremare. Lui si raddrizza, arretra di un passo e la guarda con stupore inorridito, poiché gli sembra di conoscerla. Buon Dio, pensa dopo un attimo, come Jack quella notte. Dove andate? Me ne torno a Londra, Gioia. Sono venuta a cercare un ago in un pagliaio, ma mica l'ho trovato. Guarda qua, Gioia. Te, dammi 3 scellini e mezzo e sta tranquillo che me la cavo. Così me ne torno a Londra e non gli do fastidio a nessuno. C'ho un'attività. Ah, il lavoro va male. Che tempi brutti. Ma io ci campo, in qualche modo ci campo. Mangiate oppio? Me lo fumo, risponde con difficoltà, ancora squassata dalla tosse. Te, dammi 3 scellini e mezzo che li investo bene e me ne torno a casa. 3 e mezzo, un soldo mica mi basta. Se te me li dai 3 scellini e mezzo, Gioia, io a te dico una cosa. Tira fuori di tasca i soldi, li conta e glieli mette in mano. Li afferra all'istante e si mette in piedi con una gracchiante risata soddisfatta. Dio ti benedica, sta a sentire, mio bel signore. Te come fai di nome? Edwin. Edwin, Edwin, Edwin, ripete strascicando il nome in una sonnata cantilena. Poi chiede all'improvviso: Eddie, se lo scorci? Certe volte capita, risponde arrossendo. Fa per andarsene ripetendo: Dio ti benedica, grazie, Gioia. Quando lui aggiunge: dovevate dirmi qualcosa e allora ditela. Sì, è vero, d'accordo. Sottovoce. Sta contento che non ti chiami Ned. La guarda fissa mentre chiede: perché? Perché porta male avercelo quel nome di questi tempi. Come porta male? Ci sta minaccia in quel nome. Pericolo. Non è una conclusione incoraggiante di una giornata tetra. Tende piuttosto a farlo rabbrividire, lì, da solo, in un posto isolato, in mezzo alle vestigia del tempo e del decadimento. Si incammina verso strade più illuminate e mentre procede prende la decisione di non dir nulla stasera, ma di parlarne a Jack, che è l'unico a chiamarlo Ned, domani, come di una curiosa coincidenza. Naturalmente solo come una coincidenza, non come qualcosa che valga la pena di ricordare. E tuttavia continua a pensarci, come non gli è mai accaduto, con 1000 altre cose ben più degne di essere ricordate. Prima di cena gli resta il tempo di una passeggiata, 1 miglio giù di lì, e mentre attraversa il ponte e cammina lungo il fiume, le parole della donna sono nel vento che si sta alzando, nel cielo rabbioso, nell'acqua agitata, nelle luci tremule. Sono perfino nell'eco solenne delle campane della cattedrale, che lo sorprendono all'improvviso e gli fanno balzare il cuore in petto mentre gira sotto l'arco della casa di pietra. E così lui sale la scala esterna. Jasper passa una giornata più piacevole e allegra di quella dei suoi 2 ospiti. Non dovendo dare lezioni di musica durante le vacanze, il tempo gli appartiene, tranne che per le funzioni in cattedrale. Gira per le botteghe di buon'ora, ordinando piccole prelibatezze gradite a suo nipote. Suo nipote non si tratterrà con lui a lungo, dice ai fornitori, sicché bisogna viziarlo e vezzeggiarlo. Mentre è fuori, fa una scappata da Sapsi, giusto per dire che stasera il suo caro Ned e quella testa calda del ragazzo di Chris Sparkle saranno a cena a casa sua per riconciliarsi. Sapsi non è affatto ben disposto nei confronti della testa calda. Dice che ha un colorito niente affatto inglese. E una volta che Sapsi dichiara niente affatto inglese una qualsiasi cosa, la considera sprofondata nell'abisso senza fine. Jasper è sinceramente dispiaciuto di sentirglielo dire, perché sa molto bene che Sapsi parla sempre a ragion veduta e ha il vezzo di non sbagliare. Sapsi, per una stupefacente coincidenza, la pensa esattamente come lui. Oggi Jasper ha una voce magnifica. Nell'accorata supplica a Dio perché guidi il suo cuore a osservare la legge, riempie di meraviglia gli astanti con il suo melodioso talento. Non ha mai eseguito un canto difficile con la perizia e l'armonia con cui oggi ha intonato l'inno. Il suo temperamento nervoso lo porta talvolta ad accelerare un po' l'esecuzione, ma oggi il suo tempo è perfetto. Probabilmente consegue questo risultato grazie a un grande equilibrio interiore. Ritorna fino alla porta della cattedrale e la oltrepassa diretto a casa. Mentre cammina, canta a voce bassa e delicatamente espressiva. Di nuovo, non sembra che una nota falsa rientri nelle sue possibilità stasera, come se nulla potesse farlo accelerare o ritardare. Giunto all'entrata avvolta della sua dimora, si ferma al coperto un istante per levarsi la pesante sciarpa nera e avvolgerla ad anello intorno al braccio. Per un breve momento la sua faccia è contratta e dura, ma immediatamente si rasserena, riprende il suo canto e la sua via. E così lui sale la scala esterna. Per tutta la sera la luce rossa brilla ferma nel faro che argina la marea della fervida vita. Suoni ovattati e ronzii del traffico le passano accanto e continuano a scorrere irregolari verso il sagrato solitario. Quasi nient'altro passa tranne forti folate di vento che annunciano una violenta bufera. Il sagrato non è mai particolarmente illuminato, ma poiché le raffiche impetuose hanno spento molti lampioni, talvolta fracassandoli e buttando a terra i vetri tintinnanti, stanotte è insolitamente buio. L'oscurità è più fitta e più fosca per i mulinelli vorticosi di polvere, rametti secchi, pezzi e brandelli di nidi dei corvi in cima alla torre. Gli alberi stessi oscillano e scricchiolano a tal punto in questa oscurità tangibile che turbina pazzamente, da sembrare in pericolo di essere sradicati dalla terra, mentre talora uno schianto e una fragorosa caduta indicano che qualche grosso ramo ha ceduto alla tempesta. Un vento così forte non ha soffiato per molti inverni. I comignoli precipitano in strada e la gente si afferra a pali ed angoli e gli uni si afferrano agli altri per tenersi in piedi. Le raffiche violente non si attenuano, ma aumentano in frequenza e furia, finché a mezzanotte, quando le strade sono deserte, il vento le percorre rombando, scuotendo i chiavistelli, squassando le imposte, come per avvertire la gente di alzarsi e volar via con lui. Per tutta la notte soffia il vento e non si attenua. Ma la mattina presto, quando a oriente la luce quasi non basta a offuscare le stelle, inizia a placarsi. Da allora, malgrado occasionali, selvagge sortite, come un mostro ferito a morte, cade e si accascia, e quando fa piano giorno è morto. Si vede allora che le lancette dell'orologio della cattedrale sono divelte, che lastre di piombo del tetto sono state strappate, arrotolate e sospinte nel sagrato, che alcune pietre in cima alla torre sono pericolanti. Pur essendo la mattina di Natale, per accertare l'entità dei danni bisogna mandare su degli operai. Salgono mentre Taupe e un gruppo di oziosi mattinieri si radunano vicino alla canonica e si schermano gli occhi in attesa di vederli comparire lassù in alto. All'improvviso questo assembramento viene scomposto e spinto da parte dalle mani di Jasper. Tutti gli occhi fissi su in alto sono richiamati a terra dalla domanda gridata a Chris Sparkle, affacciato a una finestra aperta. «Dov'è mio nipote? Qui non è stato, non è con voi?»